C'era una volta il ragionier Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e 6 giorni su 7 girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: «Mi raccomando, papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia. E la mamma, quelle che sapeva, gliele aveva già raccontate tutte, anche 3 volte. Così, ogni sera, dovunque si trovasse alle 9 in punto, il ragionier Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. La strada di cioccolato. 3 fratellini di Barletta, una volta, camminando per la campagna, trovarono una strada liscia, liscia e tutta marrone. «Che sarà?» disse il primo. «Beh, legno non è», disse il secondo. «Non è carbone», disse il terzo. Ma per saperne di più, si inginocchiarono tutti e 3 e diedero una leccatina. Era cioccolato, era una strada di cioccolato. Cominciarono a mangiarne un pezzetto, poi un altro pezzetto. Venne la sera e i 3 fratellini erano ancora lì che mangiavano la strada di cioccolato, finché non ce ne fu più neanche un quadratino. Non c'era più né il cioccolato né la strada. «Dove siamo?» domandò il primo. «Non siamo a Bari», disse il secondo. «Non siamo a Molfetta», disse il terzo. Non sapevano proprio come fare. Per fortuna, ecco arrivare dai campi un contadino col suo carretto. «Vi porto a casa io», disse il contadino. E li portò fino a Barletta, fin sulla porta di casa. Nello smontare dal carretto si accorsero che era fatto tutto di biscotto. Senza dire né uno né 2 cominciarono a mangiarselo e non lasciarono né le ruote né le stanghe. 3 fratellini così fortunati a Barletta non c'erano mai stati prima. E chissà quando ci saranno un'altra volta.